Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si è sentito e letto un po' di tutto sull'Italia, come normale che sia dopo una partita contraddittoria in cui c'è stato certamente del buono e altrettanto certamente del meno buono. Personalmente temevo peggio, ma è vero anche che la sterilità del nostro attacco è superiore a quella che mi ero immaginato. Se non era per quell'uscita a vuoto del portiere paraguayano, io credo che avremmo potuto giocare non so per quante ore senza riuscire a mettere dentro la palla, e questo per una squadra che ha spinto almeno per 60 minuti su 90 mi sembra un dato abbastanza grave. Vorrei confrontarlo subito col massimo esperto di calcio che io riconosca e che si chiama Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto. Buongiorno Gigi, troppo buono. Troppo buono, senti. Non è per ricambiare, ma quei concetti che hai espresso all'inizio, cioè principalmente che ti aspettavi di peggio, è anche il tuo. Mi hai rubato l'idea. Ti ho rubato l'idea. Senti, allora, no, io parto da una suggestione con te, che è questa. Stavo guardando la vigilia della partita, ieri sera, mancava, non so, un'ora e un quarto, un'ora e mezza circa, ho visto arrivare il pullman dell'Italia con insomma, queste inquadrature che fanno, e per un attimo sono tornato indietro di 30, anzi 40 anni, perché il primo a scendere dal pullman d'Italia è stato Gigi Riva, e non so perché, ma mi è venuta una cosa tipo: beh, ma allora grandi problemi non ce ne sono, e invece ne abbiamo 4 o 5 che non fanno la metà di Riva. Anche questo è un mondiale d'altura, quindi Gigi Riva ci stava bene. Devo dire, io ho non grande fiducia in questa Italia, sì. Perché ritengo che in un mondiale la qualità sia sempre una dote essenziale. In un mondiale d'altura diventa indispensabile, perché un mondiale d'altura, per l'esperienza che abbiamo maturato quando si è disputato in quelle condizioni, la tecnica prevale sull'atletismo. Non a caso i due mondiali messicani, uno l'ha vinto Pelé e l'altro Maradona. Voglio dire, non il gruppo, diciamo così. Verissimo. E quindi, vista anche l'amichevole col Messico che mi aveva inquietato profondamente, tutto sommato ieri la mia conclusione è stata mia anche questa, credevo peggio. Poi effettivamente la seconda è: ma quanti tiri in porta abbiamo fatto contro una squadra onestamente peggiore di quella che mi immaginavo, perché il Paraguay, per quello che aveva fatto nel girone di qualificazione in Sud America, era accompagnato da buonissime referenze che io credo non abbiano trovato riscontro in campo. Sono d'accordo. Forse perché mancavano anche i giocatori più importanti, da Cabañas allo stesso Roque Santa Cruz, che ha fatto un'impalpabile apparizione. Comparsata. Vero questo. Continuiamo col confronto. Allora, tra le note positive, insomma, tra, diciamo pure, la sorpresa iniziale positiva di quella fase di buona iniziativa, di aggressività, di condizione, di convinzione iniziale, i due che mi ha stupiti di più, tant'è vero che sul Sole di oggi l'ho messo la sorpresa, non ho messo Criscito, ho messo Cannavaro, perché Cannavaro e Zambrotta mi sono sembrati rigenerati. E altra riflessione suggestiva, così giusto per conversare, ma secondo me non così lontana, è questa: c'è stato un tempo in cui gli stranieri si risparmiavano nell'anno del mondiale, non è che quest'anno si sono risparmiati questi due vecchi italiani? Considerando che il nucleo principale di questa nazionale è juventino, il sospetto sarebbe fondato. Ci potrebbe stare. Visto che la Juventus non si è sprecata nel campionato. No, comunque, Valerio, poi è chiaro che i limiti, cose, qualcuno, leggendo i giornali, qualcuno ha imputato a Cannavaro il gol, non credo. Cioè, no. Lo stesso De Rossi ha riconosciuto. Il difensore che fa gol è fra Cannavaro e De Rossi, però lo stesso De Rossi ha pensato che era il suo di uomo, insomma, e tant'è vero che è stato anche bello che, essendo fra l'altro uno dei giocatori migliori ieri dell'Italia, abbia potuto riscattare quella pecca con addirittura col gol del pareggio, insomma. Però non incolperei Cannavaro specificatamente di quel gol. Sono d'accordo. Senti, altre note positive. Beh, la vitalità di Pepe persino eccessiva, no? In certi frangenti, certamente crescito per la maturità con cui è entrato. Su Montolivo forse più sì che no, ma insomma senza esagerare, non certamente Marchisio. Ecco un primo, non dico errore, ma insomma forse sì, comunque una prima cosa discutibile di Lippi. Ma perché in un mondiale insistere a far giocare Marchisio nel ruolo di Perrotta, quando Perrotta negli ultimi tempi di campionato era brillante, tornato? Sì, perché nell'ultimo sprint, lungo sprint della Roma, Perrotta è stato uno degli elementi trainanti. E sì, è vero, perché a un certo punto far fare il Perrotta a Marchisio quando hai l'originale è un'idea un pochino peregrina. L'altro lato è che Marchisio, essendo un giovane esordiente, sarebbe meglio se giocasse nel proprio ruolo. Aggiungergli l'attenzione di un debutto nel mondiale con una limitata esperienza internazionale alle spalle, quella di dover improvvisare un ruolo, sia questo, quello di esterno o quello di trequartista. Quello di trequartista io onestamente non ho indossato, è un abito che non credo Marchisio possa indossare con disinvoltura, in modo conveniente. Ecco. Sono d'accordo. Nel frattempo, le bocciature secondo me sono state Marchisio e Gilardino anche, sì. Perché sai, d'accordo, solo davanti, ma non è che ci abbia poi messo tanto nella ricerca del pallone, insomma, si è un po' abbandonato all'inizio, sì, passando il tempo sempre più spento, no? Giusto, sì. Giustissimo. Perché anche la quinta ha combinato poco, ma lo si è visto più reattivo, perlomeno, ecco, si è ribellato di più alla mancanza di rifornimenti. Pepe, a un certo punto, se gli davano il tosaerbe, sì, faceva anche il campo nuovo, sì, perché sì, aveva un super attivismo persino, a un certo punto, travolgente. Verissimo, verissimo. Senti, farei ancora un paio di riflessioni dopo l'intervallo, perché siamo vicini agli aggiornamenti del traffico. Sto seguendo anche una punizione che la Slovacchia ha appena battuto. La Slovacchia sta, ormai siamo a fine primo tempo, è ancora 0-0, la Nuova Zelanda si sta oggettivamente difendendo bene, certo si sta solo difendendo, ma si sta difendendo con un discreto ordine, e questa è una partita che nel ritiro italiano si starà seguendo con molta attenzione, perché domenica è proprio la Nuova Zelanda che deve dare all'Italia i tre punti senza i quali è inutile stare a fare tanti discorsi e tante congetture. 0-0, così è finito il primo tempo tra Slovacchia e Nuova Zelanda. Si va verso una situazione di girone simile a quella della Francia e del Sudafrica, con tutti a pari punti, anche se ci sono 45 minuti da giocare. Torno in compagnia di Adalberto Bortolotti. Prima di concludere questo collegamento, Adalberto, non mi è piaciuto per nulla Camoranesi, nel senso che è vero che è appena recuperato, è vero che in un certo senso è un minimo di scommessa che va fatta, perché è quello che ti dà la qualità, l'assist, la cosa. Ieri sera mi è sembrato un cambio infelice, anche se prima non lo puoi sapere, col rischio anche di un'espulsione poi risparmiata. Mi è sembrato Camoranesi agitato dal nervosismo tipico di chi non è nella migliore condizione fisica e tecnica, quindi, cioè del giocatore che vorrebbe fare cose che normalmente gli riescono, ma non è in grado di farle, e quindi ha i nervi scoperti. In effetti è quello che più si è avvicinato a un rosso, anche se la prima entrata su Montolivo, eravamo proprio nei primi secondi, sì, è stata abbastanza terrificante. Davvero terrificante. Lì ho l'impressione che l'arbitro non si sia reso conto di come. Non se ne è accorto proprio. Perché sono partiti con una. Un metro forse lo avrebbe cacciato al, sì, volo. Perché ancora effettivamente è stata un'entrata sulla tibia. Molto grave. Devo dire, miracolosamente non ha portato danni, perché se non fa male un'entrata del genere. Verissimo, verissimo. Concluderei, Adalberto, con la domanda che non puoi non aspettarti, e cioè mancano 5 giorni alla partita successiva. Si gioca domenica pomeriggio con la Nuova Zelanda, è una partita da vincere ad ogni costo a questo punto. È una partita d'offesa, su questo non ci possono essere dubbi. Come risistemeresti l'Italia sulla base di quello che si è visto ieri sera? Ma io giocherei con Di Natale subito. Bene. E Di Natale punta, non esterno, mm-hmm, che siupi le sue energie a correre dietro a fantomatici terzini. Sì. Coppia d'attaccanti, Passini, Di Natale. Mm-hmm. Per il resto molte conferme, perché Pepe merita la conferma, così come Montolivo, in attesa di Pirlo chiaramente. Certo. Poi al ritorno di Pirlo, un Pirlo trequartista, se Montolivo dovesse confermarsi in buona disposizione in regia, sarebbe anche una buona cosa, insomma. Dopodiché penso di essere più o meno a posto. La difesa la riproporrei, sì, incognita sul portiere a parte ovviamente, perché Crescito ha fatto tutto sommato benino e non credo che da quella zona ci sia più forti. Il più deludente è stato il giocatore sul quale puntavamo di più ieri, cioè Chiellini, devo dire, dei quattro difensori, quindi su Chiellini però è una sicurezza. Certo. E Zambrotta, come dicevi tu, è apparso fisicamente rigenerato, e se Zambrotta fisicamente sta bene, chiaramente non ha concorrenza, insomma. Quindi De Rossi, Montolivo in mezzo, rimane un esterno, mi pare, che forse, sì, se vogliamo pensare a una partita da vincere, gli Quinta da una parte e Pepe dall'altra. Questa potrebbe essere una soluzione. Grazie ad Alberto Bartolo. Di Natale sono 3 punti dei quali che possono farle le punte 2 a turno e sì, uno tornare e uno rientrare, certo. Certo. Anche perché Di Natale nell'Udinese ha fatto tantissimi gol, ma io gli ho visto fare anche tantissimi assi. Come no? Cioè è un giocatore che se gioca non da trequartista, ma un po' dietro, da elastico, fa dare la palla dentro, a patto che dentro ci sia gente che si muova. Il Pazzini di adesso, insomma, non rinuncerei alla sua spinta. Ecco. Sono d'accordo con te, e soprattutto su Di Natale che fa l'elastico, come si diceva una volta quando si usava un altro linguaggio rispetto a oggi, che non si fa altro che attaccare lo spazio, attaccare la porta, attaccare la profondità, e non si fa mai gol nemmeno a spingerli. Grazie ad Alberto. Grazie a te, Gigi, a risentirci. Chiudiamo questo collegamento con Bologna. I numeri dell'audience di ieri sera sono assolutamente impressionanti. 18.907.000 spettatori hanno seguito la partita su Rai 1 per uno share del 63.18. E a questi 18.907.000 ne vanno sommati 2.542.000 con uno share dell'8,5% che era seguita su Sky. E quindi arriviamo a 21 milioni di telespettatori abbondanti. Sono davvero tanti per una partita inaugurale. Le novità di oggi, la conferenza stampa di Lippi di un'ora e mezza fa. A proposito di modulo, sentiamo. C'è stata una crescita sicuramente importante come condizione fisica, come convinzione. C'è ancora qualcosa da migliorare, certamente lo sappiamo. Non dipende solo esclusivamente dal modulo tattico, assolutamente. D'altronde questi sono 2 o 3 modi di giocare sui quali abbiamo lavorato in questi 20 giorni che siamo insieme. E con questi andremo avanti, può darsi che una volta ne utilizzeremo uno, può darsi che una volta ne utilizzeremo un altro, è una caratteristica di tutte le squadre, di molte squadre, ma ci sono dei paesi, delle nazioni dove si gioca, tutte le squadre giocano lo stesso tipo di calcio e tutti giocano lo stesso tipo di calcio e la nazionale gioca lo stesso tipo di calcio. Altre nazioni invece dove c'è, diciamo così, una globalizzazione maggiore. E allora ci sono 2 o 3 maniere di giocare, e queste ce le abbiamo anche noi. Alterniamo gli interventi che arrivano dal Sudafrica a quelli di voi ascoltatori. Massimiliano, in linea da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Grazzini, la ringrazio per poter parlare con lei. Le faccio due domande velocissime, poi ascolto la sua risposta per radio. Sì. La prima, io ho visto tutte le partite mondiali, a parte Messi, neanche l'Argentina, solo Messi e forse la Germania, non ho visto delle grosse cose migliori dell'Italia, e se ieri l'Italia metteva dentro un gol in più forse non parlavamo tutti come stiamo parlando oggi, perché poi io questo grande disastro magari non l'ho neanche visto. No, andiamo per ordine, su questo sono d'accordo con lei. Per mettere dentro un pallone in più bisogna tirare in porta, però c'è quella regola lì nel calcio che se non tiri è difficile che la palla entri. Ragione. L'altra cosa, chiedo scusa perché siamo in momento di mondiali, quindi esulo un attimino, però chiedevo a lei che è un, insomma, conosce il calcio. Allora, la Juventus, sono tifosi della Juventus, ha messo via la dirigenza vecchia perché non ne capiva molto di calcio mercato, ha preso questo Marotta, anch'io sono contento, però mi faccia capire se non ho capito male io. Stiamo prendendo una metà di un giocatore, Bonucci, per dare al Genoa tutto un Criscito di ieri sera e metà Palladino? Non lo so, Massimiliano, mi faccia grazia di mercato attuale, ho la testa al mondiale e per un mese sta bene lì, mi creda e insomma troverà altre fonti, io non sono al corrente davvero di queste trattative. Torniamo da Lippi, che parla di crescita. Siamo cresciuti molto rispetto alle ultime apparizioni, perché solo quelle erano i riferimenti nostri. Ma la consapevolezza che quello che avevamo fatto, quello che avevamo detto, che la crescita fisica, atletica ci sarebbe stata, è un'iniezione di sicurezza, di convinzione per i ragazzi. L'avversario che ci è venuto ad affrontare con grandissimo rispetto, un po' anche perché gliel'abbiamo imposto noi. E c'è da crescere però per quanto riguarda alcune cose, certamente. Ma questo succederà sicuramente. È ottimista Lippi su questa crescita, che poi insomma, non l'ha detto, ma sono gli attaccanti a dover crescere sia come personalità, ma anche come dire perentorietà, nel senso il discorso di prima, che è banalissimo, ma insomma per far gol devi tirare in porta. Dopodiché l'amico bolognese di prima, Massimiliano, ha detto bene, se parliamo di qualità, la qualità che si è vista finora in questo mondiale sono Messi e la Germania, sono completamente d'accordo con lui. Angelo da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Dunque, lei in parte ha già detto qualcosa relativamente al Camoranesi. Camoranesi che ieri sera io lo considero non improponibile, assolutamente improponibile, non per un mondiale, ma neanche per una partita fra Scapola e Mogliati. Perché io da bambino, quando giocavo al pallone, avevamo alcuni che venivano chiamati pallapezza. Ecco, lui è proprio il classico pallapezza. Ieri sera, se lei riguarda tutta la partita, lei troverà da quel momento in cui è entrato non ha preso un pallone, e tutte le volte che gli è stato passato o ha sbagliato il passaggio o è stato contrato e l'ha perso. Angelo, ecco, lei io non capisco perché. Lei non deve essere parente di Camoranesi, a quanto capisco. Io l'ho visto, cioè mi ha molto deluso, anche perché è entrato in un momento in cui l'Italia stava rispingendo forte dopo la fase iniziale, aveva superato il trauma del gol al passivo ed era la fase in cui la sua creatività, la sua fantasia, che è quella che poi sta mancando, no, all'Italia in questo momento, ma in questa fase storica, doveva essere il valore aggiunto, e invece questo valore aggiunto non c'è stato, non solo, ma i vecchi vizi del nervosismo, la ripicca, il calcetto, il falletto in ritardo sono tornati fuori, e questo è estremamente negativo. C'è ancora un frammento di Lippi della conferenza stampa di un'ora e mezza fa che ascoltiamo. Non ho visto la perfezione in nessuna delle altre squadre che ho visto giocare fino adesso. La perfezione non ce l'ha nessuna alla prima partita. Penso che rischiamo molto, ma molto, ma molto di più. 4 anni fa, la prima partita col Ghana, se vi ricordate, dove Buffon fece 4-5 parate di un certo tipo, piuttosto di quello che abbiamo fatto ieri sera. Però andiamo un pochettino più vicino alla realizzazione. È vero, questo è vero. Buffon fu protagonista fin da subito nel mondiale tedesco con una serie di interventi contro il Ghana. Però quel Ghana era anche un avversario più tosto di quello che invece il Paraguay, con tutto il rispetto, perché è una squadra difficile da battere. però insomma di quello che il Paraguay ha rappresentato ieri sera. Torniamo in onda, oggi andiamo un pochino più di fretta perché andando avanti in mondiale gli argomenti ovviamente si aumentano di numero e finiscono per accavallarsi. Bentornato a Fabio Tavelli dal Sudafrica. Grazie Gigi, buongiorno. C'è poca Africa. Poca Africa, dici? Fa un freddo cane, oggi ecco, t'assicuro. Partiamo da lì. Da battere i denti, t'assicuro, oggi da battere i denti. Ci siamo svegliati, stamattina sono uscito dal residence, c'era un grado, ma adesso mia. c'è alzato un vento e al sole non, oddio, al sole resisti perché se si ferma il vento ce ne saranno 8-9, ma se riprende il vento ti assicuro sembra di stare in seggiovia. Poi siamo a 1600 metri, poi pure su una collinetta, e quindi è tutto molto normale, però credimi l'escursione termica rispetto a 3-4 giorni fa, qui si pranzava spesso all'aperto quando siamo arrivati. Bei adesso tempi. Neanche un orso lo farebbe. Poi pare che De Grandis ieri sera sia stato messo immediatamente dopo la gara in una asciugatrice, perché mi raccontano i ragazzi che a Cape Town hanno preso un diluvio universale con tanto freddo. Io vi dirò, mi dispiace molto per voi, sono contento per il mondiale perché questo genere di tornei così intenso, così corto, no? E così fitto di appuntamenti, è più bello andando avanti a gioco lungo se non c'è il caldo che ti porta via energie supplementari. No, non c'è dubbio, tu hai il mondiale in Messico e te lo ricorderai benissimo. E come no, Stati Uniti non ne parliamo. E ti garantisco che tra i 38-39 di Manhattan, che non dimenticherò mai per 3 settimane, e il vostro grado, insomma, io ancora ci farei un pensierino. Senti, anch'io. Due argomenti in breve. Uno è Drogba. Allora, Drogba tra tra un'ora e mezza scarsa, appena Nuova Zelanda e Slovacchia sparecchiano no? E ci liberano dalla loro non irresistibile presenza, ma adesso ha fatto gol, in questo momento ha fatto gol, direi proprio la Slovacchia, se non ho confuso le mani. Sono i bianchi, infatti, e la Slovacchia è strano perché con un portiere come quello della Nuova Zelanda avrei scommesso sullo 0-0. E invece una bella azione, un bel cross da destra e finalmente un colpo di testa come si deve di Vitek, e quindi Slovacchia 1, Nuova Zelanda 0. Dicevo, tra un'ora e un quarto, poco più, Costa d'Avorio Portogallo comincia a essere una partita di cartello. Novità su Drogba e sul suo braccio fratturato. Allora, il braccio sta bene e la FIFA questa mattina intorno a mezzogiorno, 12:30 circa, ha dato l'approvazione per il tutore che Drogba metterà. Non sarà proprio una cosa particolarmente rigida, sarà una bendatura, non ci saranno grandi problemi da questo punto di vista. Adesso la decisione spetta a Eriksson. Io credo che lo farà giocare perché già ieri Eriksson aveva detto di non essere libero di prendere una decisione perché aspettava che la FIFA verificasse l'entità di tutto quello che verrà applicato al braccio di Drogba. Ricordiamoci che Drogba si è fratturato il braccio destro in un amichevole contro il Giappone, ha avuto bisogno di un intervento chirurgico, quindi non una cosa lieve. È arrivato qui in Sudafrica, si è allenato immediatamente il primo giorno, ma già il secondo giorno si è allenato per controlli, radiografie e quant'altro. L'altro ieri si è invece allenato, un allenamento un po' leggero. Io credo che giocherà e comunque poi bisognerà vedere che tipo di approccio, che tipo di impatto avrà, che tipo di marcatura avrà. Beh, perché certo, insomma anche gli avversari sanno che possono intimidirlo senza voler essere maliziosi, no? È abbastanza normale. E basta vedere come sono entrati su Montolivo ieri alla prima azione. E quindi siamo molto curiosi. Io credo anche che Eriksson farà tutto il possibile, cioè se Drogba dice che se la sente lo farà giocare, perché questa è già una partita decisiva, perché è la sfida tra le seconde forze e sono due squadre che non dovessero andare agli ottavi sarebbero molto delusi. Ci sono due precedenti che spiegano anche questo sì della FIFA, che tra l'altro trovo giustissimo. Uno era stato René van den Kerkhoff nella finale argentina, l'olandese nella finale con l'Argentina del 78, e poi Lineker nell'86 ai mondiali messicani. Gigi, se non ricordo male, sembrava quasi fosse quasi un gesso, comunque un bendaggio molto rigido, ma veramente simile al gesso. Van de Kerkhove non ricordo benissimo, ma anche Lineker. Credo che Drogba abbia bisogno di un po' meno, e però su una superficie più ampia e che comprende anche il gomito, per cui forse gli può dare anche tendenzialmente più fastidio, perché se non ricordo male sia Lineker che Van de Kerkhove avevano praticamente il bendaggio che gli arrivava alle dita, sì, ma che si fermava, sì, a metà dell'avambraccio. Sì, sì, sì, questo è vero. È vero anche che è arrivato quasi certamente il primo gol in fuorigioco dei mondiali, perché un replay che Sky ha appena trasmesso un istante fa ferma l'immagine al momento del cross da destra del giocatore slovacco, e il marcatore mi sembra leggermente al di là della linea dell'ultimo difensore, quindi è il primo gol in offside. Temo che non sarà l'ultimo. No, però è anche vero che non ti so aiutare perché sono venuto a bere un vin brûlé. Me l'immagino in quelle condizioni. Certo, appena fuori dallo ski lift, immagino. Senti, e comunque non direi che statisticamente questo non cambia il fatto che finora i mondiali siano ben arbitrati e molto ben sventolati dagli assistenti. Poi un errore in 10 partite o in 11 inevitabilmente ci può stare. Brasile stasera, dicevo che Costa d'Avorio, Portogallo del pomeriggio, è un po' uno spareggio appunto per vedere chi può giocarsela col Brasile per qualificarsi, a meno che tutti i timori e le polemiche della vigilia del clan brasiliano non abbiano prodotto guasti più profondi. Ma questo lo scopriamo stasera. Io credo due cose: intanto che al Brasile vada bene un approccio così morbido, anche perché loro forse hanno anche bisogno in questo momento di ritrovare un po' più di convinzione, un po' più di fiducia, perché la critica è abbastanza feroce. Qui i brasiliani sono tutti molto arrabbiati con Dunga, perché lui non gli fa vedere gli allenamenti, perché lui ha imposto un regime, uso regime naturalmente con tutte le cautele del caso, molto simile a quello di Mourinho, molto simile a quello di Capello, e anche forse di Marcello Lippi. Insomma, una gestione molto diversa rispetto a un Brasile scanzonato, che comunque appartiene più agli anni 80 e forse primi anni 90, nel senso che dopo è comunque un po' cambiata la situazione. Detto questo, non è un Brasile tecnicamente irresistibile, è un Brasile che forse non è a livello tecnico complessivo la più forte squadra di questo mondiale, ed è un Brasile, gli è stato chiesto in conferenza stampa a Dunga, è un Brasile che si è italianizzato grazie a molti giocatori italiani, cioè che giocano nel campionato italiano, lui ne è uscito molto bene, direi palla al piede, perché ha detto no, è l'Italia che si sta uniformando agli standard brasiliani. È una bugia, però sì. Vendetta, e quindi gliela passiamo. Vendetta, talmente vendetta che tra poco la sentiamo, perché l'abbiamo registrata proprio grazie a voi. Grazie a te, allora. Grazie a Fabio Tavelli, buongiorno. Buona giornata a tutti, arrivederci. Buon pomeriggio. Sto vedendo che il dato di ascolto della partita esordio dell'Italia in realtà è abbastanza costante, perché Italia-Ghana nel 2006 fu, che era la prima partita di allora, fu vista grosso modo dallo stesso numero di persone di adesso, forse un milioncino in più, sempre sommando Rai e Sky. A parte il fatto che mi fanno notare alcuni ascoltatori con i loro SMS che nel nord Italia c'è anche parecchio ascolto, per esempio della TV svizzera, nella zona dell'Alta Lombardia, e questo sarebbe un altro dato da aggiungere. Stefano in linea da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. È una mia considerazione, sì. Se questo è il Paraguay in cui ha giocato l'Argentina di Maradona con 6 gol di Castro, mi sa che ieri sera l'Italia si tirava in porta, però i 6 gol che davamo noi. Bisogna tirare in porta, c'è sempre quel problema lì, perché un conto è aver l'idea, un conto è aver creato lo schema per, un conto è, e poi però quando ti trovi con un solo difensore davanti, come si è trovato un paio di volte a Quinta, soprattutto uno all'inizio, e nemmeno ci provi a puntarlo, fai fatica poi a sperare di far gol davvero. Leggo tanti messaggi. Massimo Caponi scrive: ma Girardino giocava, non ha fatto una sponda, non ha fatto salire la squadra, era sempre in ritardo o dietro l'uomo tutta la vita Pazzini. Non ha fatto una sponda, non ha fatto salire la squadra, non è vero, nella fase iniziale lo ha fatto per un po', poi si è smarrito, tutti gli attaccanti, a cominciare da Girardino e da Iaquinta, perché in fondo erano in due gli attaccanti, non hanno offerto una buona prestazione, si sono smarriti strada facendo. Nicola ha chiamato da Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Anch'io ho visto quasi tutte le partite del mondiale e mi pare che appunto la qualità è un po' latiti. E non sono neanche d'accordo sul giudizio dato sulla Germania, perché francamente ho visto giocare l'Australia e a parte i primi minuti in cui ha messo un po' in difficoltà i tedeschi, il resto veramente mi è sembrata anche un po' imbarazzante in alcuni momenti, in alcuni movimenti difensivi l'Australia. Sì. Per questo però vi dico che non sono così deluso dall'Italia, perché sin dalle convocazioni mi pare che si possa definire una, senza Pirlo poi e senza Di Natale all'inizio, una squadra, non dico senza qualità, ma cioè, non voglio offendere nessuno, nel senso che per come è stata messa in campo sono orgoglioso di come hanno giocato. È chiaro che se non c'è nessuno che fa il passaggio per consentire all'attaccante di tirare, o se il povero Gilardino fa anche le sponde ma non ci sono gli inserimenti dei centrocampisti, non è che si va molto lontano. No, no, ma infatti è vero, questo è il problema principale. Poi io credo che con giocatori appunto che è lo stesso problema, no? Cronico, che l'Italia ormai ha da parecchi anni, Germania, a cominciare dalla Germania, dove ricordiamoci che i gol decisivi arrivarono da dietro, ma non dagli attaccanti, se non nella misura di uno a testa e una volta mi pare due, Toni, con l'Ucraina. Insomma, io credo che, per carità, le scelte le fa il commissario tecnico, è lui che li vede tutti i giorni, è lui che ha seguito il ritiro, è lui che aspetta l'ultima valutazione, ma prima di rinunciare a un capocannoniere di campionato che ha segnato almeno il doppio degli altri e che oltretutto diceva benissimo Bortolotti prima, rispetto a questi giocatori è il più tecnico, cioè è anche quello che oltre a vedere la porta è quello che ti manda dentro volentieri, perché gli piace quel movimento elastico e gli piace anche l'assist per il compagno che si inserisce. Insomma, io credo che ieri sera si sia sentita proprio la mancanza un po' di un giocatore con queste caratteristiche, assai più che di Camoranesi, per esempio. Sembra ieri di Nicola Filippone, anche oggi dedicato a una data particolare nel mondiale, tornando indietro negli anni, e cioè un 15 giugno. Sembra ieri. 15 giugno 1974. All'Olympia Stadium di Monaco di Baviera, gli azzurri vicecampioni del mondo debuttano nel mondiale tedesco contro la sconosciuta rappresentativa di Haiti. La gara si rivela più complicata del previsto e pochi secondi dopo l'inizio della ripresa, Manno Sanon gela i tanti italiani presenti sugli spalti. Il veloce attaccante haitiano scappa a Spinosi in contropiede e supera Zoff. Il portiere della Juve vede così interrompersi una striscia di imbattibilità in nazionale durata 1143 minuti. Ma il fantasma di una nuova Corea scompare nel giro di 6 minuti grazie al pareggio di Rivera. Il sorpasso arriva grazie a un'autorete su tiro di Benetti. Al 70esimo Valcareggi decide di sostituire uno spento Chinaglia con Anastasi. Il primo non la prende bene, rivolgendosi al CT con un gesto eloquente. Il secondo lo ripagherà con il gol del definitivo 3-1. Se Haiti non può essere considerata una nuova Corea, gli azzurri pagheranno comunque caro il gol di Sanon, dato che usciranno al termine della prima fase a causa della differenza reti e per un solo gol. A proposito di esordi mondiali con l'Italia che passa in svantaggio, no? Certo fu, ieri sera non è stato piacevole, ma quello, il gol di Sanon nel 74 a Monaco di Baviera, che Nicola Filippone ci ha appena ricordato, fu veramente clamoroso, anche perché era la prima partecipazione di Haiti ad un mondiale. Quell'Italia era arrivata in Germania assai più da favorita che non questa. C'era una grande squadra potenzialmente, con i Capello, i Rivera, i Riva, i Mazzola, gli Zoff, insomma, veramente una grande squadra che invece finì fuori come una ramazza già nella fase eliminatoria, e si capì sin dalla prima giornata da questo gol di Sanon, che potremo sentire brevemente in un frammento dell'epoca. Colpo di testa di Nageo, contrattacco e va in porta e segna. Portato in vantaggio Haiti al primo minuto del secondo tempo. Mazzola. Questa era la voce di Martellini che descrisse quel gol. Ricordo Sanon ondeggiò un pochino sulla tre quarti centrale del nostro schieramento difensivo, puntò Spinosi, lo saltò e poi arrivò in porta. La Marcord è fatto, potremo sentire un ascoltatore, Giovanni per esempio, dalla provincia di Foggia. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno signor Garanzini. Dica. Io purtroppo sono un allenatore di calcio, sì. Per i bambini soprattutto, però . E niente, io ieri sera facevo una constatazione. Noi stiamo avendo i risultati di quello che noi creiamo, perché se noi ci ammazziamo a portare avanti dei bambini, presidenti che come si dice lì, che investono su questi bambini eccetera eccetera, e poi ti arrivano procuratori, ti arriva questo, ti arriva quell'altro, che praticamente ti disturbano tutto il lavoro che fai, perché non è possibile. E io capisco anche i presidenti di Serie A che vanno a prendere anche gli stranieri eccetera eccetera. Se noi produciamo e poi ti arriva un presidente nostro, e dico uno dei miei, che ti viene a chiedere per un ragazzo di quel livello lì eccetera eccetera, ti viene a chiedere 700-800 mila euro a una società, è chiaro che una società poi deve andare a comprare un prodotto già fatto. E questo qui discorso lungo Giovanni, discorso non inedito, discorso che non è nemmeno limitato alla sola Italia, mi creda, perché questi sono i problemi che oggi con cui alle prese oggi il calcio un pochino di tutto il mondo, forse non di tutto, ma insomma di quelli in cui il fenomeno calcio è economicamente, finanziariamente importante, come per esempio lo è da noi. Facciamo una parentesi di stamane: a Sky Sport a un certo punto intorno a mezzogiorno ha fatto irruzione Antonio Cassano alla vigilia del matrimonio, è stato evidentemente ovviamente ospitato in studio, un Cassano particolarmente in forma e brillante, non nemmeno particolarmente avvelenato direi nei confronti di Lippi che l'ha escluso dal mondiale, ma certamente non affettuosissimo come era lecito aspettarsi. Sentiamo questo divertente frammento. Pensavo che poteva stare Totti, che poteva stare Del Piero, non ho pensato a me, perché sono 2 anni che tutti pensano a me, tranne chi dovrebbe pensare. Però io mi auguro che l'Italia possa vincere, io sono un tifoso italiano, in questo momento qua sono lì ad aspettare che l'Italia possa fare benissimo, poi ripeto, lui non mi vede, cosa ci posso fare? Almeno visto che se ne deve andare, speriamo che va via l'11 luglio con una vittoria, non per lui, per i giocatori e per tutto il resto, tranne che per lui. Se io ho l'opportunità che hanno tutti gli altri, che me la devo giocare, non penso di soffrire, perché io penso di essere uno che se la può giocare tranquillamente e stare in nazionale senza nessun tipo di problema. L'unico problema è che l'attuale CT diceva che da 18 a 35 tutti speravano, io ho sperato fino all'ultimo, però per gli altri le porte si sono aperte, per me no. Può darsi, soffre la personalità, soffrirà qualcosa, non lo so, io non ho mai avuto a che fare con lui, tranne quando mi ha chiamato il primo periodo, infatti ha detto che mi dovevo stancare di andare in nazionale. Mi sono stancato tanto a non andarci, però. E questo era uno sfogo, per il momento ancora mi pare abbastanza tranquillo, di Cassano di stamane, ripeto, su Sky Sport. Dal Friuli mi fanno notare che non ci sono soltanto le telecronache della Svizzera italiana ad aggiungersi, no, a fare altra audience, ma anche quelle per esempio di Coper, di Capodistria, dove che sono viste e coltivate, no, affettuosamente in tutta la zona friulana. Lorenzo in linea da Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Buongiorno a tutti. Tra le varie luci e ombre di ieri, che condivido tutto quanto detto, ci sono tante luci e tante ombre. Volevo sottolineare 2 aspetti fra i vari. Il fatto dell'aspetto fisico, che mi sembra molto buono, del collettivo. Sì. Il fatto sempre positivo che Lippi abbia cambiato modulo e abbia cambiato la partita nel secondo tempo e che la squadra l'abbia assolutamente seguito in questo, quindi vuol dire che tatticamente siamo duttili. Mentre tra le ombre, fra le varie ombre, una che non mi sembra essere stata ancora esaminata, le volevo chiedere, secondo me è una cattiva gestione di Buffon, perché ci siamo mangiati un cambio importante in corso di gara. Non si è capito bene se stava male durante il riscaldamento o se è stata una cosa venuta fuori durante la partita. Io sono d'accordo con tutta la sua analisi, poi dire che sia stata una cattiva gestione non ci scommetterei, nel senso che Buffon a un certo punto deve aver detto che si sentiva di provarci, prima di far debuttare un debuttante in un mondiale. e Buffon si rischia. Certo, questo ha nuociuto alla possibilità di un terzo cambio, perché probabilmente se Pazzini sarebbe entrato, insomma, ci sarebbe stata, ecco, una soluzione in più. Mi spiace per Sergio da Brescia, sarà il primo interlocutore di domani. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, buon pomeriggio. A tempo di sport.